Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di... Sarà capitato anche a voi. Intanto buongiorno da Nicoletta. Oggi usiamo l'incipit di una delle mitiche sigle di Canzonissima per dire: sarà capitato anche a voi, se siete genitori, di dover usare la tavola su cui consumate il pranzo e la cena con i vostri figli come un vero e proprio campo di battaglia, perché sono sempre più numerosi i bambini che inscenano i loro peggiori capricci intorno al piatto in cui mangiano. Allo stesso tempo sono sempre più numerose le mamme, i papà, i nonni che si interrogano e sono a volte un po' disperati, perché non riescono più a capire che cosa può andare bene e cosa invece va evitato per cercare di far crescere i bambini con un buon rapporto con il loro stile di vita, inteso naturalmente come dieta, come stile alimentare, ma non solo. Abbiamo raccolto alcuni dubbi di un gruppo di genitori. A mio figlio piacciono solamente le cose che gli fanno male, gli piacciono i fritti, non mangia le verdure, si riempirebbe solamente di dolci. A 7 anni e tutti i suoi amichetti più o meno sono così, quindi è anche piuttosto difficile prendere delle posizioni. Sì, lo so, anche la pediatra mi ha detto che mia figlia è un po' cicciottella. Sa, la bambina ha sempre fame e tenerla dieta davvero, come si fa? Allora, mia moglie ha un problema opposto con i nostri due figli. Li vede sempre magri, li insegue col piatto tutti i giorni per farli mangiare. Ieri li imbeccava sulle scale addirittura. Io mi arrabbio sempre, però poi pur di vederli mangiare cedo e sto zitto. Ad esempio i pediatri dicono di mangiare cereali, soprattutto cereali in chicchi, però è anche difficile dopo una giornata di lavoro. Io ad esempio non ho il tempo di cuocere il farro per più di un'ora. E poi come faccio anche a farla mangiare ad esempio a mio figlio, che vuole solo la pasta o al pomodoro o al pesto, e poi ho anche il problema di mio marito, che non assaggia mai niente di nuovo. Bene, anch'io ero così, però ho provato a cucinare insieme a mia figlia e ho visto che cucinando tante cose riusciamo a assaggiare un po' tutto. Se io sapessi dove si può imparare a fare un menù settimanale che vada bene per noi grandi, per i piccoli. Cioè, abbiamo gusti diversi, a volte si finisce per litigare per queste cose qua. Vi suonano familiari queste frasi? Le avete dette negli ultimi giorni anche voi e i vostri ragazzi? Allora, oggi, cari amici, è la vostra puntata. Lo è sempre, ma se avete dei figli, oggi lo è in modo particolare. E non solo è vostra, perché è anche la puntata delle mamme blogger, che saluto e ringrazio. Ciao Veronica. Buongiorno a tutti. E saluto Yolanda. Ciao a tutti, buongiorno. In linea però non poteva mancare la nostra dottoressa Trinci. Dottoressa Trinci, buongiorno. Buongiorno, sono con poca voce, ma munitevi di carta e penna, perché ho una serie di librini da consigliarvi per far mangiare pomodori, piselli e anche la verdura verde. Fantastico. Wow. La dottoressa Trinci, che senza voce è psicoterapeuta dell'età evolutiva, e in studio con noi abbiamo il professor Luca Bernardo, che è direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fatebrine Fratelli di Milano, e aggiungo il primo ospedale in cui è nato, proprio il primo direi in Italia e forse anche in Europa, ambulatorio proprio destinato al bullismo. Buongiorno a voi, è proprio così. Professor Bernardo, noi l'abbiamo unita alla dottoressa Trinci, e poi ci daranno manforte naturalmente le nostre mamme da casa, le nostre nonne e le mamme in studio, perché il rapporto con il cibo che ogni bambino instaura sicuramente tocca delle dimensioni complesse della salute, quella del corpo, quelle delle emozioni e anche poi quelle delle relazioni. Ma professor Bernardo, quali sono i principali problemi che le mamme le raccontano quando vengono da lei, e su cosa si concentra soprattutto la loro richiesta di aiuto? Beh, innanzitutto ricordiamo che il momento del pranzo, della cena, della colazione, della merenda e dello spuntino non è solo un momento importante dal punto di vista nutrizionale, ma anche un momento importante nel quale la famiglia si siede intorno a un tavolo, perché se ci siede intorno a un tavolo per mangiare

a crescere bene. Ne parliamo oggi con la dottoressa Paola Reverso. Buongiorno dottoressa Reverso, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, grazie, buongiorno a tutti. Ricordo che la dottoressa Paola Reverso è un esperto del nostro Daily Lab, inoltre è medico, nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te, autrice anche di un libro di cui abbiamo parlato che insegna proprio ai genitori e ai bambini a mangiare bene, il libro di Ludovica. Allora, chi è Ludovica? Beh, Ludovica è una fatina, per i bambini è una fatina. Diciamo che porta un pochino quella che è la positività della vita, le nostre tradizioni, da bilanciare con il benessere, la salute vista in una chiave non punitiva, come si dice a volte, arriva una nutrizionista, aiuto, non mangio più niente. No, arriva una nutrizionista, arriva Ludovica ed equilibriamo. Allora, dottoressa Reverso, noi l'abbiamo letto, lo ripetiamo con i nostri esperti quasi ogni giorno a Essere Benessere, alimentazione e attività fisica sono senza dubbio i fattori più importanti da considerare, la base proprio da cui partire per aiutare i bambini e i loro genitori naturalmente a invecchiare con una buona qualità di vita. Però dottoressa, questa è la teoria, lei ci aiuti a tradurre tutto questo in qualcosa di pratico, di concreto? Il tempo è poco, la voglia di preparare cose buone per i nostri bambini c'è, ma lei ci deve aiutare. Allora, intanto noi medici diciamo subito, dovete mangiare più cereali in chicchi. E allora la prima domanda è, oh mamma mia, come faccio a mangiare più cereali in chicchi? Che cereali in chicchi necessitano di lunghe cotture, tipo il farro, il kamut, l'orzo? Ma non è un problema, iniziamo piano piano a fare dei piccoli cambiamenti. Usiamo il couscous, è sempre comunque in chicchi, non è proprio un cereale, diciamo, ma è più paragonabile alla pasta. È un'alternativa, il couscous fa ancora prima della pasta, perché basta solo far bollire l'acqua, una volta che l'acqua bolle spegniamo, mettiamo il couscous, 3 minuti è pronto, più veloce di così abbiamo un cereale in 3 minuti da aggiungere alle verdure, da mettere dentro un'insalata con del tonno, delle uova sode, abbiamo poco tempo per mangiare e abbiamo bisogno di un pranzo veloce, oppure magari se abbiamo più tempo il couscous lo serviamo magari con del pesce cotto al cartoccio nel forno. Quindi oppure... lei ci sta dicendo, dottoressa Reverso, ai nostri bambini possiamo in qualche modo insegnare a mangiare in un modo diverso, ma inserendo anche alimenti nuovi, sfruttando i monopiatti, il piatto unico. Il piatto unico, sì. Io ho scoperto, dico scoperto perché in fondo è una scoperta, perché io non essendo una mamma e avvicinandomi ai bambini, diciamo, in modo più diretto e non soltanto come medico, ma come mi vedono loro come maestra. Per i bambini io sono ormai diventata la maestra del benessere, ma una maestra che non lavora, diciamo, attaccata alla lavagna, ma una maestra che è una maestra di educazione fisica al benessere, quindi noi ci alleniamo al benessere, dico noi, io e i bambini. Per cui bisogna, il piatto unico è colore, il piatto unico è varietà, possiamo mettere una porzione di carboidrato che corrisponde al couscous oppure alla pasta, al riso, provando magari il riso basmati, il riso integrale, il riso venere, che è quel riso nero, o il riso selvatico, abbiamo tantissime varietà di riso. E poi possiamo poi spaziare su tutti quelli che sono i cereali in chicchi, che adesso troviamo anche nella grande distribuzione, quindi non dobbiamo fare troppa fatica, perché poi dobbiamo anche pensare a questi poveri genitori di dargli dei consigli che loro possano attuare facilmente. Quindi la spesa all'ultimo minuto è la spesa che si fa alla grande distribuzione, perché è tardi, poi per chi ha più tempo può andarsi a cercare il negozietto piuttosto che il mercatino, per carità, va bene tutto, adeguiamoci ognuno ai propri bisogni e ai propri ritmi. Quindi un carboidrato, poi una porzione di proteine, quindi può essere pollo, può essere carne bovina, quella bisogna mangiarla una, massimo 2 volte alla settimana. Il pesce, abbondiamo nel nostro pesce, del nostro Mediterraneo, del nostro pesce di lago, di fiume, a seconda di dove abitiamo. E poi tante verdure, le verdure danno il colore e lo si sa che i bambini amano il colore. La prima cosa che ti dice un bambino quando ti vuol far contento, ti dice ti faccio un disegno. E noi cerchiamo e sfrutteremo questo invito della dottoressa Reverso, quindi di aggiungere il colore ai piatti dei nostri bambini,